L'associazione Giona riunisce alcune città italiane nel comune obiettivo di promuovere e valorizzare la cultura ludica sul territorio attraverso attività ed eventi, come per esempio abbiamo visto la settimana scorsa con i centri di cultura ludica torinesi. Giona aderisce all'iniziativa indetta dall'Associazione Internazionale delle Ludoteche, la ITLA, di indire una giornata che riunisca famiglie da tutto il mondo nel gioco e nello spirito più genuino dell'attività ludica, e cioè quello dello stare tutti insieme, quello della fantasia e della creatività. La giornata mondiale del gioco ha avuto luogo domenica 29 maggio 2011 e noi di Bimubalegiu siamo andati a vedere come la città di Torino abbia organizzato l'evento, grazie al lavoro dei Centri per la Cultura Ludica e ITER, istituzione torinese per un'educazione responsabile e a coordinamento ludico. Purtroppo molte voci sono andate perdute per distrazione e per inesperienza, ma molte altre sono rimaste e ci hanno raccontato di iniziative ludiche e di associazionismo, ma soprattutto ci hanno trasmesso l'entusiasmo verso la possibilità dello stare insieme in una bella giornata di sole e divertirsi giocando, senza discriminazioni e senza pregiudizi. Radio 110 presenta Bim Bum Baleju, un programma a cura di Francesco Rigoni. Bim Bum Baleju, così gioca il mondo. Benvenuti alla 16ª puntata di Bim Bum Baleju, così gioca il mondo, su 110 Web Radio, la radio dell'Università degli Studi di Torino. Come avete sentito dall'introduzione, abbiamo provato a gettarci sul campo, grazie soprattutto all'aiuto di Maria Cristina Stasi, del Centro per la Cultura Ludica di Torino, vero e proprio cicerone durante la giornata di domenica 29 maggio, che ci ha accompagnato stand per stand e ci ha mostrato e raccontato che cosa i Centri per la Cultura Ludica e ITER avevano organizzato per l'occasione. Purtroppo, per un errore di distrazione, forse di inesperienza, parte di questo percorso è andato perduto, tra cui un paio di interessanti chiacchierate, ma molto altro è rimasto e ve lo vogliamo proporre in questa puntata. Avremmo preferito farvi avere un documento senza interruzioni, che lasciasse spazio alle voci e ai rumori della piazza, quella piazza San Carlo che si è riempita di bambini e di famiglie per l'occasione, ma per dovere di completezza di informazione e di chiarezza dovremmo interromperci di tanto in tanto e fare il punto della situazione. Lasciamo spazio adesso alla prima tappa di questo breve tour. Ci siamo fatti raccontare da Renata Bronzino cos'è il gruppo Gioco Spedale e cosa ha organizzato per la giornata mondiale del gioco. Come gruppo Gioco Ospedale è proprio un'attività che è rivolta ai bambini ospedalizzati, quindi la possibilità di continuare a giocare anche in un ambiente, in un contesto dove naturalmente è sottolineato la passività e la malattia. Sì. Mentre invece quello che noi andiamo a stimolare è proprio un po' la risorsa positiva del gioco, in modo da dare libera fantasia e una possibilità di riprendersi in un modo positivo. Il gioco simbolico è molto usato, in questo caso abbiamo delle cullette con dei bambolotti che vengono curati dai bimbi, e i bimbi, proprio perché è un gioco simbolico, indossano dei piccoli camici che sono i camici del dottore e simulano, grazie a un materiale naturalmente gioco come il fonendo, le siringhine che sono gioco, la cura al bambolotto. A fianco a questi giochi, che sono appunto giochi simbolici, dove i bambini si mettono nei panni, ci sono alcune presentazioni dei progetti che seguiamo come gruppo Gioco Ospedale. Sì. Uno è l'accompagnamento alla sala operatoria, di cui si può vedere il libro gigante 1,70 m, che fa parte di un progetto di accompagnamento alla sala operatoria, per cui si spiega al bambino quello che deve sapere ed è bene che sappia per poter affrontare l'esperienza dell'ospedalizzazione per l'intervento chirurgico nel miglior modo possibile. Sì. Viene fatto la preparazione all'intervento sia a Regina Margherita sia al Martini, e si utilizzano questi pupazzi, che sono pupazzi a guanto, che sono o Martino e Martina, quelli che lavorano al Martini, o Tamino e Stella, che invece sono le mascotte. Stavo Regina. No, Tamino e Stella, che sono invece al Regina Margherita. Sul tavolo abbiamo anche il libro di accompagnamento. Buongiorno. Sala, sì. Questo libro che alternando disegni e fotografie sì. dà una sequenza di quello che è l'accoglienza del bambino al momento dell'entrata in ospedale fino ai protocolli che si devono seguire prima di andare in sala operatoria, e c'è anche proprio la parte relativa a come è fatta una sala operatoria e naturalmente una conclusione nel miglior modo possibile sì. dell'esperienza, e quindi il ritorno a casa dando il diploma di grande coraggio per sottolineare così la parte attiva del sì, bambino. Certo. Questo è Lasciati prendere per mano, mentre invece questo libro qua è un libro laboratorio, se possiamo definirlo così, dove la filastrocca cancella paura suggerisce come affrontare l'esperienza dell'ospedalizzazione, sì. dove naturalmente è importante sì avere coraggio ma anche avere fantasia, e allora trasformare gli oggetti comuni che si possono trovare in un ospedale, quali la mascherina piuttosto che la cuffia. Questa è la mascherina? No, sono qua la cuffia, i guanti, okay. con un po' di carta e cartoncino sì. e pennarelli. Decorarli, diciamo. Esatto, diventano okay. magari il paracadute sì. utilizzando la cuffia, gli abbassalingua diventano dei segnalibri, sì. Con un po' di cartoncino anche la siringa può diventare una farfallinga. È molto, molto originale. E quindi partendo da una filastrocca un po' cancella paura sì. si passa ad un'attività manuale che in qualche modo dà spunto a un lavoro che aiuta il bambino a superare il momento e anche la preoccupazione dello stare in ospedale. Sì, certo. La Bibliomaus ha anche preparato invece un libro con Ernesto e le parole, dove appunto questo topolino, grazie all'aiuto delle parole, trova la soluzione ai suoi problemi. Sì. Sono un po' tutti modi diversi per accompagnare il bambino nell'esperienza dell'ospedalizzazione. Dico il bambino, ma dico anche la famiglia, perché il bambino che arriva in ospedale non è mai un bambino da solo, è tutta sì, certo. una famiglia che affronta un'esperienza che di per sé è già un'esperienza traumatica, che sconvolge e stravolge sì. le abitudini, il modo di vivere, è sempre un po' una situazione sì. di emergenza, per sì. quanto possano... quantomeno rompe il ritmo, diciamo. Esatto, per quanto magari sono anche situazioni molto contenute, senza andare a parlare sì. di situazioni invece più complesse, come possono essere quelle dell'oncomatologia, dove il percorso di cura è molto lungo. Sì. E allora lì ci sono altre strategie che sì. in qualche modo abbiamo studiato per accompagnare e collaborare con l'equipe medico-sanitaria. Questo... ti ringrazio moltissimo. Aspetta, Renata, ma il cognome non me lo ricordo. Bronzino. Renata Bronzino dell'ospedale Regina Margherita. Sì, del... sì, come gruppo gioco ospedale. Gruppo gioco ospedale. Inter. Grazie mille. Bim bum bale giù! Siamo tornati negli studi di Via Verdi 8 per raccontarvi della giornata mondiale del gioco. Per l'occasione Piazza San Carlo a Torino è stata trasformata in un percorso di gazebo dedicati ciascuno a una tipologia di gioco differente. Giochi per i piccoli, costruiti con materiali protetti come la gomma piume e tappeti. Giochi di percorso come il gioco dell'oca e il percorso delle biglie. Giochi di movimento come il salto della corda e la campana. Giochi di mira come il tiro agli anelli e il bowling. C'era anche uno spazio dedicato allo skateboard e uno dedicato all'educazione stradale, nel quale i vigili insegnavano i bimbi in bicicletta le norme basilari del codice della strada. Il tutto presentato secondo lo stile e il progetto di Giona e dei centri per la cultura ludica. Giochi costruiti con materiali di riciclo come carta, cartone, legno, oggetti d'uso comune come i cilindri esauriti della carta da cucina, le cassette per la frutta, vecchi giornali e tutti quei materiali che possono essere riutilizzati con creatività, una politica che favorisce l'uso della manualità e dell'immaginazione rispetto alla pratica del gioco stesso. Giocare è anche costruire il gioco con le proprie mani, abbellire secondo il proprio gusto, personalizzarlo secondo la propria fantasia. La parte relativa a questo percorso e non solo, purtroppo è quella che, una volta in studio, il lunedì pomeriggio non siamo riusciti a recuperare. Ascoltiamo però la voce della nostra gentilissima accompagnatrice, Maria Cristina Stasi, che ci ha guidato per mano e illustrato ogni angolo della piazza, che ci racconta di un altro particolare evento che ha avuto luogo domenica 29, e cioè l'inaugurazione della ludoteca Avada Kedavra di Torino. C'è una banda che sta girando, sì. questa banda a un certo punto prenderà un gruppo di bambini sì. e li porterà... A un gruppo a caso? No, i bambini che vogliono venire okay. a casa, i bambini c'è l'inaugurazione della ludoteca Abracadabra, sì, che era stata già aperta, sì, un po' di anni fa, sì, invece poi è passato un anno, c'è Maria Carla anche, un anno di ristrutturazione perché è stata ampliata. Allora, è stata ampliata al piano superiore, sì, e ci sono aumentate il personale chiaramente, sì, perché prima c'erano solo due insegnanti, adesso ce ne sono cinque, perché tiene aperto tutto il giorno, al mattino per le classi, al pomeriggio per l'utenza libera. Sì. E ci sarà una sezione di giochi da tavolo, come in tutte le ludoteche, sì, però anche lì aperta sempre la sezione, perché questa ludoteca si occupa dei bambini dai 6 ai 14 anni, sì, quella fascia che vogliamo, sì, sempre, e quindi stiamo cercando, perché poi ci sono delle ludoteche. Cosa bisogna fare? Cioè, cosa è richiesto a uno che lavora in una ludoteca? Tu hai parlato di insegnanti. Guarda, nel comune di Torino sono proprio insegnanti, sì, oppure sono insegnanti della scuola materna, sì, o educatori asili nido. All'inizio conta che Torino è stata come Firenze e altre città, sempre ti parlo degli anni 80, sì, dalla nascita delle biblioteche, sì, comunali, sì, messe sui vari, nelle vari punti della città, sì, il dottor Ferrarotti, che era il pedagogista, era parte, diciamo, l'area didattica dei servizi educativi di Torino, sì, era molto di questa idea dell'ampliamento del gioco sul territorio, e da lì siamo nati, quindi molti hanno fatto il progetto, sì, e hanno iniziato a lavorare nella biblioteca, ah, poi chiaramente altre persone si sono, sì, inserite, anche perché sono nati altri servizi, sì. Oh, Torino, bello, come sempre ti ripeto, è ancora, sono comunali, non, sì, sono private, perché ci sono alcuni posti dove alcune sono diventate città private, sono diventate date alle cooperative, sì, oppure il comune ha lasciato questa città. Tu pensi ci sia uno scarto tra privato e pubblico, nel senso c'è uno scarto, che il servizio pubblico dovrebbe essere gratuito, sì, noi paghiamo una tessera di 10 euro all'anno, sì, insomma, e i bambini possono usufruire di andare in, quindi c'è la gratuità, già è qualcosa che andrebbe garantita, diciamo, sì, giustamente, peraltro. Bim bum bale giù! Bim bum bale giù, 16ª puntata. Siamo andati in Piazza San Carlo ad assistere alla giornata mondiale del gioco e a farci spiegare le iniziative dallo staff di ITER, dei centri di cultura ludica e di coordinamento ludico. Torniamo ancora un attimo alla piazza per ricapitolare le attività di cui non potremo proporvi l'audio. L'ultima che ci resta da raccontare è l'iniziativa Festival Under 15, a cura del Centro di Cultura per l'Educazione e la Cittadinanza. In piazza è stato allestito il mercatino di manufatti creati con materiali riciclabili e di riciclo, un'attività che da sempre vuole celebrare la creatività dei giovani, il senso di cittadinanza, la partecipazione attiva e democratica, ma soprattutto la possibilità di mettere in piazza la solidarietà e le azioni concrete che si possono compiere quando si è protagonisti di iniziative e forme di partecipazione. Attività e prodotti sono realizzati dai ragazzi nelle scuole e nell'ambito delle proposte educative dei centri di cultura di ITER. Inoltre sono stati rappresentati in piazza alcuni degli spettacoli della rassegna Pagine in Danza, un'occasione per le famiglie e cittadini per ritrovarsi, divertirsi e sostenere l'impegno dei ragazzi. I proventi della giornata di domenica sono stati devoluti, come ogni anno, a progetti di solidarietà e cooperazione. Quest'anno il comitato dei ragazzi ha deciso, per votazione, di devolvere il ricavato delle vendite del mercatino per contribuire all'acquisto di un cane guida per non vedenti. Adesso passiamo ad ascoltare le voci raccolte nel settore dei giochi in scatola, dove le associazioni membri del coordinamento ludico di Torino hanno portato i loro giochi e invitato chi volesse a fermarsi a giocare presso i loro tavoli e così conoscersi e divertirsi insieme. Qua il comune di Torino ha dato una sede. Ah, sì, cioè, nel senso che noi abbiamo per tutte, non per tutte quelle che hanno chiesto, sì, poi tutte possono, sì, parteciparvi. Noi abbiamo messo su un coordinamento ludico che si chiama Quelli che giocano, ah, sì, e praticamente alla nascita di Quelli che giocano potevano chiedere chi non aveva la sede, sì, chi aveva problemi di sede, tipo la piccola armata, sì, Tremme, sì, a un'altra associazione la utilizza per andare a giocare, sì, e viene utilizzata dal coordinamento, sì, come sede dove facciamo le riunioni del coordinamento, sì, di Quelli che giocano. Che vuol dire? Torino e provincia, quindi Val di Susa, Settimo, tutto circondario, anche la Val d'Aosta ha fatto riferimento al coordinamento, non usa la sede ma vengono alle riunioni. Ah, bene. Anche perché in Val d'Aosta è nata adesso sui giochi da tavola una bella associazione, molto viva, molto, sì, tra l'altro riguarda supportata dal comune anche, sì, di Aosta. Bim bum bale giù! No, No, volevo chiederti, siccome comunque nel senso, cioè, mi sembra anche che sia una grande famiglia questa, perché vi conoscete tutto sommato, cioè vi organizzate tutto il resto, quanto vi state allargando, quanto si sta allargando questa famiglia e quanto contribuisce un evento del genere ad allargarsi, nel senso, è una comunicazione efficace? Il coordinamento ludico si sta allargando molto. Sì. Come tutte i flussi ci sono stati momenti, per esempio c'è stato il momento in cui è nato il coordinamento che c'erano molte associazioni, entusiasmo, eccetera. Certo. Poi noi e il coordinamento ludico, stiamo parlando dei giochi da tavolo, si viene sempre nelle piazze proprio per far conoscere i giochi in scatola e i giochi da tavolo ai ragazzi, alle famiglie, perché sono proprio giochi anche in famiglia, da fare in famiglia. Che c'è stato un momento che si è perso, invece oggi sta ritornando. Sta rilanciando. Si sta rilanciando in tante città. Bim bum baleggiù! Però sul gioco, sul coordinamento ludico, diciamo che in questi anni a Torino e credo nelle altre città si sta allargando molto. Poi a Torino è nata questa cosa qui, che credo che in nessun posto d'Italia ci sia un coordinamento ludico, che si chiama appunto Quelli che giocano, ed è nato proprio nel 2000. Guarda, è nato 3 o 4 anni fa, subito dopo il primo gioco a Torino che abbiamo fatto, che è stato fatto all'Ingotto, in cui hanno collaborato tutte le associazioni. Da allora c'è stata questa partenza e si è deciso di nascere. E sono una grande famiglia, perché tutte le associazioni si conoscono, perché ci sono proprio dei momenti dell'anno in cui tutte le associazioni, a Chivasso, a Settimo, a settembre, a settembre, a novembre a Torino c'è Gioca Torino, a settembre c'è Settimo in gioco, quindi diciamo che poi la collaborazione tra le associazioni è questo, essere presenti nelle varie iniziative della singola associazione, di supporto agli altri. In bomba! Ci racconti cosa abbiamo qui? Facciamo la ricostruzione della battaglia di Castelfidardo in scala, quindi qua abbiamo la mappa, come puoi vedere, questa è tutta la zona con lo schieramento generale, il riquadro verde invece con le frecce, quella blu per i piemontesi, quella rossa per l'esercito del Papa, e dove i movimenti delle truppe che hanno portato poi allo scontro. Praticamente la battaglia in realtà è poco nota, benché sia una battaglia abbastanza importante, perché ha coinvolto poche truppe, circa 2-3 mila uomini per parte, quindi è una piccola battaglia, però è una battaglia molto importante, perché avendo determinato la sconfitta totale in pochissimo tempo dell'esercito pontificio, ha fatto in modo che i piemontesi potessero annettere velocemente l'Umbria e le Marche e quindi collegare il nord Italia al sud Italia, che era stato liberato da Garibaldi, che in quel momento era nei pressi di Napoli. E poi ci sarà l'incontro di Teano, chiaramente, cui Garibaldi consegnerà a Vittorio Emanuele II l'Italia con la storica frase "saluto la Italia". Quindi, benché sia una battaglia piccola, è una battaglia geopoliticamente importante, perché ha permesso di unire i due eserciti, altrimenti il rischio era che se i piemontesi non raggiungevano Garibaldi c'era il rischio che il sud creasse una repubblica indipendente e non avremmo avuto l'Italia spaccata in due. Certo. Questa è l'importanza della battaglia. Qual è il senso di farci un wargame? Il senso di farci un wargame è perché noi facciamo wargame, a parte il gusto di farlo, e quindi è bello rigiocare le battaglie storiche e vedere tu la rigiochi, però magari, cioè, se vince il Papa. Infatti le ultime due volte hanno vinto i papalini. E cosa succede? Ti vida l'Italia. Non si fa l'Italia. Nel gioco. Così, 150 anni dopo. Beh, devono anche poter vincere, altrimenti perché fare la partita. È giusto. Non è facile, però. Non è facile. Per chi non conosce il game può sembrare strano, però alla fine è un po' il senso è quello. Il senso è un po' quello, però in realtà va contestualizzata. La battaglia che ricostruiamo noi è la mattinata della battaglia. Sì. Nel pomeriggio l'esercito piemontese ha fatto una convergenza sui lati, arrivando con la cavalleria da sud e con una marea di fanteria da nord, e l'avrebbero comunque tramonti. Quindi lo stesso. L'Italia si fa. Diciamo, l'Italia si fa comunque, tranquilli. Perché nel pomeriggio si fa. Risico nasce 9 anni fa da un gruppo di giocatori solo di Risico. Sì. A Torino prima non c'era quasi nulla. Nasciamo in modo abbastanza casuale, nel senso che da Milano organizzano un torneo al Bar Norman, che anche il Barlove anni fa venne, nacque il Torino Calcio. Ci trovammo lì, il gruppo di giocatori torinesi iniziava a crescere e quindi pian piano ci siamo organizzati, ci siamo strutturati e pochi mesi dopo abbiamo iniziato a fare un primo nostro torneo organizzato noi da Torino, abbiamo iniziato a mettere su un club ufficiale che è stato subito riconosciuto da Editrice Giochi, che è l'editore del Risico in Italia. Nel corso degli anni siamo cresciuti anche come interesse, quindi non solo come numero di giocatori ma anche come a cosa voler giocare oltre che al Risico, e quindi abbiamo una ludoteca interna di oltre 50 titoli diversi di giochi. Abbiamo organizzato campionati nazionali per alcune case editrici, abbiamo partecipato ai vari campionati nazionali di Editrice Giochi di Risico, vincendo fra l'altro la prima edizione del campionato a squadre, quindi siamo stati anche, abbiamo questa chicca qua, abbiamo organizzato invece a livello di tornei singoli 3 raduni nazionali, l'ultimo si è svolto a settembre del 2010 a Villa Gualino e ha visto la partecipazione di 108 giocatori provenienti da tutta Italia. Spesso e volentieri Editrice Giochi chiama qualche nostro giocatore a arbitrare le sue finali nazionali e siamo difatti riconosciuti universalmente come uno dei club più efficienti, più attivi e più partecipi sia dagli altri club sia dalla stessa Editrice Giochi. La nostra sede è in via Montecuccoli 1, ci troviamo tutti venerdì sera dalle 9:30 in avanti. Quindi se si vuole venire a fare una partita a uno dei 50 giochi. A uno dei 50 giochi, ben volentieri. Come sta andando oggi? Abbiamo iniziato nel pomeriggio e abbiamo tante persone che non conoscevamo che hanno visto i tavoli, si sono seduti, abbiamo un tavolo con 4 ragazzini che stanno provando a giocare a Risico, tra l'altro molti conoscono il Risico vecchio, quello del distruggere le armate rosse, che ormai è superato, nel senso che ormai a torneo si gioca con altre regole, con altri obiettivi. Abbiamo avuto prima una coppia di stranieri appassionati di backgammon e quindi sono rimasti un'oretta a giocare fra di loro, abbiamo delle famiglie, abbiamo 2 o 3 bambini 9-10 anni che stanno imparando a giocare a backgammon, quindi direi che è positiva questa iniziativa. Benissimo, io ti ringrazio. Grazie a te. Buon gioco. Grazie. Ciao. Ci scusiamo con Franco del progetto ludico Valsusa, il quale purtroppo è rimasto coinvolto nella nostra inefficienza e la cui importante testimonianza non possiamo restituirvi nella sua voce. Il progetto ludico Valsusa ha lo scopo di divulgare il gioco da tavolo e rendere partecipe la popolazione valsusina, portando a conoscenza argomenti relativi al suo territorio, quali la storia, l'ambiente, il sociale, lo sport e il folklore valsusino. Attualmente i prototipi prettamente valsusini creati da Franco Rossi sono 7. 773, la battaglia delle chiuse, l'alta velocità, ideologia al confronto, Apage, patate in raccolto, lupi, Dore ripare, rischio alluvione e slalom sono i titoli. La voce di Franco è una voce di polemica e attivismo, nella necessità di creare un collegamento con la città di Torino per accedere a servizi e facilitazioni, nella consapevolezza di tutte le difficoltà intrinseche di un territorio che non aiuta a collegare le persone, ma piuttosto a dividerle. Concludiamo la nostra gita fuori porta con l'ultima voce della puntata, quella di Paoletta, cofondatrice di Gioca Torino, spazio comune che coinvolge e informa tutti gli appassionati di giochi di vario genere, e anche coideatrice e conduttrice della trasmissione Frequenza Ludica, che da 5 anni informa gli appassionati sugli eventi e le novità a sfondo ludico sulle frequenze web di Radio Impronta Digitale. Parto da Gioca Torino. Va bene, sì. Gioca Torino è una realtà che è nata nel 2005, quindi ha già 6 anni di vita ed è nata da un gruppo di appassionati, in parte amici, in parte no, insomma persone che condividevano questa passione per il gioco. Parliamo di gioco da tavolo principalmente, quindi per chi non conosce il mondo, per fare un esempio, Risico e Monopoli, ma noi conosciamo la declinazione di questi giochi in tante altre sfaccettature, ne conosciamo migliaia, giusto per darvi un'idea della grandezza del mondo ludico come lo intendiamo noi. E appunto è nato così, un po' per scherzo, tramite una mailing list di queste persone che volevano organizzarsi, avere un mezzo di comunicazione comodo per organizzare le proprie serate di gioco, e poi si è svelata essere una comunità che in poco tempo si è allargata. Sì. Amici degli amici hanno coinvolto persone, iscriviti alla mailing list, vieni a trovare il martedì sera, il venerdì sera, giochiamo insieme. E quindi questa comunità si è allargata e questa mailing list altrettanto racconta circa 300 iscritti di Torino e dintorni, ma anche di fuori. E di dove vi incontrate? Noi ci incontriamo attualmente due volte a settimana, sì, tutte le settimane, il martedì sera in Cascina Rocca Franca, cioè nella zona di Mirafiori Nord, e dalle 8:30 alle 11:30 di sera circa. E... Tutti e 300? No. No, c'è un bel turnover, nel senso, sì, che comunque ci sono persone magari che negli anni hanno o messo su famiglia, sì, cambiato, certo, casa, chissà che cosa, quindi riescono a seguire meno frequentemente, ma c'è un cambio, come dire, generazionale, non, sì, solo, per cui poi nuove persone che ci conoscono in eventi come questo, come, sì, del gioco, sì, in cui ci mettiamo in piazza e facciamo vedere che esistono anche questi giochi, nuovi appassionati si avvicinano a questo mondo e quindi ci frequentano, sì, quindi c'è un turnover indifferente e diciamo che la media è 30-40 persone a serata, sì, non sempre gli stessi presenti. L'altro appuntamento è il venerdì sera, sì, all'Open 011, che è un ostello per la gioventù. Noi abbiamo un salone che affittiamo per i nostri piaceri. Voi fate parte sempre di coordinamento ludico comunque. Sì, facciamo, sì, parte di questo coordinamento in cui abbiamo sempre creduto, sì, abbiamo visto nascere e crescere, però abbiamo appunto come realtà, non siamo un'associazione, sì, siamo solo un gruppo aperto di appassionati e abbiamo questi nostri incontri. Il venerdì sera è un incontro che va per le lunghe, cioè inizia alle, sì, 9:30 e potendo dormire sabato mattina avanti fino alle 3-4 del mattino. Bilanciate nei giochi più spessi. Sì, diciamo. Oppure tanti giochi sono, sì, più o meno impegnativi. E anche lì insomma la frequenza è abbondante e la cosa carina è che spesso, siccome i ragazzi, i bambini il sabato non vanno a scuola, sì, allora i genitori li portano a giocare da noi il venerdì sera. Molto e bello. Quindi abbiamo proprio una quantità, la sezione di... sì, under 15, under 14. Anche sì, che giocano a parte ma anche ai nostri tavoli. La cosa bella appunto del gruppo di giocatorino è vedere differenze di età, insomma c'è anche il bambino di 6, 7, 8 anni che gioca con l'uomo dai capelli bianchi, per dire la fascia che copre. Questo perché non c'è pregiudizio, sì, e quindi è bello vedere comunque i bambini che si impegnano e che a cui piace questo passatempo, comunque sono anche in grado di ragionare tanto bene quanto un adulto, e questo non pone i limiti. Sì. Questo è un po' il bello del gruppo. Il gruppo appunto è nato e cresciuto negli anni, ha, come dire, consolidato alcuni appuntamenti importanti, tra cui i ritrovi infrasettimanali, il weekend no gastroludico, che è un appuntamento che si sta avvicinando, per cui lo cito. Beh, certo. Che si svolgerà il 17, 18, 19 giugno, sì, a Fracatinà, in questo caso Canestrelle, vicino, insomma, in provincia di Torino, e per noi è un evento importante perché è un po' il ritrovo, sì, annuale, primavera-estate, in cui si gioca a volontà, lasciando, sì, spazio anche al buon cibo, al buon, sì, vino, che non fa mai male, si gioca e si mangia, addirittura c'è chi, pazzerello, fa l'online long, quindi non va a dormire, gioca 48 ore. Vabbè, i giocatori lo fanno, se lasciati liberi di esagerare, esatto. Sì, ne approfitta, c'è chi magari è un po' in astinenza, allora viene lì e si sfoga un po'. E come va oggi? Oggi va quanti tavoli avete? Noi abbiamo una decina di tavoli, okay, che gestiamo, siamo qui appunto in via Roma, e abbiamo portato una selezione di giochi che insomma ormai con l'esperienza sappiamo essere adatti all'attività, sì, di questo genere. Per esempio, nel senso, in una fiera, cioè fiera, in un evento pubblico all'aperto come questo, qual è il gioco, cioè qual è la tipologia di gioco che può funzionare meglio, nel senso qual è il gioco più facile da giocare? Dunque, chiaramente rispetto dipende al pallone, sì, cioè, dipende dalle fasce di età. Sì. Noi abbiamo un must per i bambini che, come vedi, è quel gioco dell'aeroplanino, il pilotino. Ah, quello è il Gino Pilotino. Che come vedi insomma riesce a coinvolgere bambini, è sempre occupato, fanno la coda, e è un gioco che si spiega da solo, come, sì, vedi, e soprattutto coinvolge bambini anche piccoli, quindi, sì, questo è un po', ma in media cerchiamo giochi semplici, magari o di carte, sì, non troppo lunghi da spiegare, sì, non troppo lunghi come durata, sì, anche leggeri, non, sì, impegnativi, e insomma che attirino l'attenzione, sì, perché è chiaro che al primo impatto, insomma, il primo può impatto è quello duro, che conta, sì, sì, conta, fa molta differenza. Chiaro che se ti propongo un gioco di un'ora e mezza che ti spiego in mezz'ora, sì, se non sei un appassionato magari... Infatti io ho visto lì Colony di Catan, ma mi sembra un po' lunga da giocare. Sì, esatto. No. Poi chiaramente si possono fare dimostrazioni, quindi una demo che dura poco, però noi abbiamo giochi, non so, Rattlesnake piuttosto che Carcassonne, insomma sono giochi di Villa Paletti, giochi magari di manualità oppure di party game, noi li chiamiamo, sono giochi che tendono a divertire, a essere giocati in tante persone, spiegati brevemente, giocati altrettanto, quindi insomma... Sì, molto veloce anche per consentire, diciamo, il ricambio dei tavoli, esatto, perché giustamente se poi la persona piace, trova il tavolo occupato. Poi non ha spazio, bisogna dare spazio a tutti. Bim bum baleggio! Se io chiudo quest'anno, ma voi continuate, nel senso, siete partiti tanto noi tempo fa. Siamo nati nel 2006 anche con Frequenza Ludica ed è stata un po', come dire, una scommessa, perché stava nascendo Radio Impronta Digitale, che è la web radio che ospita anche la nostra trasmissione, e essendo noi appassionati di questo mondo abbiamo colto la palla al balzo e deciso di parlare di giochi, perché nessuno lo faceva, era un modo alternativo per farlo e quindi per fare in modo di parlare di giochi il più possibile. Essendo una web radio è anche ascoltabile appunto da internet in tutto il mondo, non è necessario, se vogliamo almeno in tutta Italia, dove c'è una comunità ludica appunto molto, molto ampia e che può contattarci e mettere, insomma, partecipare alle trasmissioni. Quanto precursori siete? Nel senso, quante altre trasmissioni di giochi esistono in Italia che vi sappiate? Trasmissioni radio ce n'è una molto importante che purtroppo chiuso anche quella, ma molto molto importante, stiamo parlando di Giocando, che andava in onda su Radio Rai 2 fino all'anno scorso, con gli ultimi conduttori erano Anna 5 e Omero Cambi, che appunto abbiamo avuto il piacere di vedere a Lucca, che è una delle manifestazioni più importanti. Radio Rai 2, il sabato pomeriggio mi sembra dall'una... Da tanti anni! Perché da un anno... La Radio Rai 2 ha cambiato un po'... Sì, ha cambiato tutto. Ha cambiato tutto e ha chiuso diverse trasmissioni, tra cui... E niente, Frequenza Ludica invece nasce da questo, appunto da io e Tinuz, che è l'altro co-conduttore, altro co-ideatore, siamo nati così per scherzo, invece poi è diventata una cosa importante perché abbiamo iniziato a frequentare anche le manifestazioni più importanti a livello italiano, quindi Modena con la ModCon piuttosto che Lucca con Spain Games, e giravamo come te con il microfonino a intervistare le persone, finché a un certo punto nel 2007, se non sbaglio, 2007 è nata la prima collaborazione come media partner dell'evento, e quindi Frequenza Ludica era presente col suo stand e riusciva a intervistare tutti gli ospiti, i protagonisti, gli autori stranieri, insomma tutte le persone che bazzicavano per l'evento al nostro stand, alla nostra radio, dando voce alternativa anche in questo caso. Andiamo in onda tutti i primi mercoledì del mese, forse questo mercoledì spostiamo, ma niente, siamo appunto riascoltabili con tutto il nostro archivio sul radio, su www.improntadigitale.org, alla trasmissione Frequenza Ludica. Va benissimo, ti ringrazio per averci esposto tutto molto bene e umilmente saluto. La giornata mondiale del gioco è un evento poco noto in Italia. D'altro canto sarebbe strano il contrario, visto che più e più volte abbiamo osservato nella nostra trasmissione che la conoscenza della cultura ludica è molto limitata e necessiterebbe di una maggiore diffusione. Eventi vetrina come la giornata mondiale servono per mettere in luce gli sforzi e la volontà delle persone di condividere spazi per qualcosa di importante e di bello, qualcosa che fa della condivisione e del divertimento aspetti centrali della propria filosofia, e per questo forse meriterebbero più attenzione e più spazio. Noi con i nostri limiti, le nostre incertezze, abbiamo cercato di aprire una finestra su questo mondo, partecipando all'evento come testimoni oculari un po' ingenui, un po' impreparati, cercando di cogliere dalle voci il senso più profondo dell'esperienza ludica, che è poi l'entusiasmo, il senso di gioia che si ha nel poter confrontare con gli altri. Il gioco quindi come luogo di incontro e di condivisione, una delle ultime frontiere di una ricerca, nei meandri del gioco, che volge ormai a suo termine. Il tempo a nostra disposizione finisce qui. Ringraziamo tutte le persone che hanno partecipato al nostro piccolo reportage, in particolare particolare Maria Cristina Stasi per il suo ruolo fondamentale di accompagnatrice e guida attraverso gli eventi della giornata. Ringraziamo anche Carlo e Davide alla parte tecnica. Ricordiamo i contatti: www.110.unito.it è il sito di 110, dove potete trovare i podcast delle puntate precedenti, e 110webradio@gmail.com, il nostro contatto mail. Per ulteriori informazioni e contatti potete cercarci su Facebook al nome Bim Bum Bale Giù. Per tutto quello che riguarda le attività di cui vi abbiamo parlato c'è la pagina di ITER www.comune.torino.it/ITER e di Gioca Torino www.giocatorino.it. Io sono Francesco, l'appuntamento per la 17ª puntata di Bim Bum Bale Giù, così gioca il mondo, è per mercoledì prossimo, sempre alle 20, sempre su 110 Web Radio. Buonasera. Avete ascoltato? Bim Bum Bale Giù! Un programma a cura di Francesco Rigoni. Bim Bum Bale Giù, così gioca il mondo.